Angeli e Black Block. Alan sembrava caricato a molla, in quei giorni era particolarmente agitato. Fu un'escalation fino alla sera in cui toccò la vetta. A Parigi ci furono degli scontri con la polizia che in tenuta antisommossa arrestarono più di 100 persone, tra gli attivisti c'era anche Alan che correndo, lanciando sassi, impugnando bastoni e spranghe cadde rovinosamente da una scala rompendosi il malleolo peroneale destro. Finì in ospedale, ricoverato con una prognosi di 30 giorni. Fu portato nella stanza dove era ricoverato era un ragazzone dall'aspetto atletico, massiccio, che dava l'idea di essere indistruttibile. Come Alan anche lui era caduto dalle scale e anche lui si era rotto il malleolo peroneale destro, ma Rar non aveva partecipato alle manifestazioni, era caduto da due gradini dell'ingresso della palestra in cui lavorava, era istruttore di boxe. Non era mai accaduto che due persone a pochi minuti di distanza fossero ricoverate per lo stesso identico trauma, tanto che i medici, gli infermieri e pure gli addetti alle pulizie li soprannominarono i separati alla nascita. «Non capisco perché ti hanno ricoverato», esclamò Marcella al telefono, «per una banale frattura ti tengono in ospedale? Allettato?» «Tengono anche il mio compagno di stanza», rispose Alan. «Allettati per una frattura al malleolo non si è mai sentito», insistette Marcella. «E la polizia che ha chiesto di fermare tutti quelli arrivati in ospedale durante gli scontri, forse per fare le indagini», disse Rar. A quelle parole Alan subito pensò «stavolta finisco dentro». Passarono diversi giorni nella noia più assoluta, i due si continuavano a chiedere perché non li lasciassero uscire soprattutto perché, se la polizia stava facendo indagini, nessuno li aveva interrogati? Rimasero là parcheggiati quasi dimenticati, pensarono anche questo. Che fossero stati dimenticati o fossero stati scambiati per qualcun altro. Insomma le pensarono tutte, comunque lì erano e lì rimanevano. Fortunatamente per Alan, Rar era un tipo molto simpatico, gli piaceva giocare a carte, passavano così il loro tempo in grandi tornei di tutti i giochi possibili. Alan iniziò a scrivere poesie e aforismi umoristici, un po' bel posè. Che presto divennero lo scherno dei suoi amici quando andavano a trovarlo in ospedale. Leggevano ad alta voce poi si lamentavano perché mancavano le figure. Insomma la camera di Alan e Gerard sembra un cabaret. In piena notte Alan e Gerard vennero svegliati da un sibilo insopportabile. I due si guardarono perplessi. Dopo alcuni istanti due colonne di luce apparvero davanti ai loro rispettivi letti. Gerard guardava la luce davanti a lui, incantato. Alan invece sobbalzò spaventato. Le due luci si proiettarono sul soffitto e crearono due cerchi che roteavano velocemente. «Le vedi pure tu?» chiese Gerard ad Alan mantenendo lo sguardo fisso sul soffitto. «Sì», rispose Alan guardando Rar. «Sta parlando anche a te?» «Sì», rispose Alan, «cosa ti dice?» «Che dobbiamo seguire», rispose Rar. «Andre», dissero simultaneamente. Si guardano stupiti. Le due luci sparirono. L'episodio di quella notte tenne banco per tutta la mattina seguente. Scatenando una litigata furibonda tra Rar e la sua fidanzata Franoise. «Ancora queste storie?» strillava Franoise. «L'ha vista pure lui», insisteva Gerard, «diglielo Alan. Anche tu credi negli extraterrestri, angeli, arcangeli, divinità stellari?» domandò irritata Franoise ad Alan, poi rivolgendosi al fidanzato, «ho dimenticato qualcuno? Demoni? Madonne? Madonne nere? Maya, Anasazi ... chi altro?» «L'arcangelo Gabriel sta inviando i suoi angeli per preparare il ritorno del re e la regina», sottolineò convinto Gerard. «C'è pure una regina?» strillò Franoise, «questa non l'avevi mai nominata». «Sto rivalutando Sylvie», brontolò fra sé Alan. «Senti, io me ne vado a lavorare», sbuffò Franoise, «non ho tempo da perdere dietro i tuoi discorsi demenziali». Franoise uscì dalla stanza sbattendo la porta quasi in faccia ad André e Marcel che stavano entrando in quel momento. «Che è successo?» chiese Marcel. «Una sfuriata della mia ragazza», rispose Gerard. Rar e Alan raccontarono ad André e Marcel cosa era accaduto durante la notte. E della reazione di Franoise. «Dice che mi devo far curare, che ho le allucinazioni, che ho preso troppe botte quando facevo il pugile. Io e Franoise andiamo d'accordo solo quando facciamo le gite con il camper», mormorò sommessamente, «per il resto è un tira e molla continuo». Rar iniziò a disquisire su Gabriel come messaggero celeste per il ritorno del vero re e della regina dimenticata. Marcel seguiva i suoi discorsi convinto stessero per accadere cose importantissime, Alan invece sempre più frastornato. Ma tu non parli mai di angeli o arcangeli, disse ad André. André non riuscì a rispondere perché venne distratto dalla suoneria del telefono. Era Silvia che lo aggiornava riguardo i preparativi del loro matrimonio imminente. La telefonata di André e il chiacchiericcio filosofico sugli arcangeli in astronave vennero repentinamente interrotti dall'ingresso improvviso di un medico e due infermieri. «Ma voi qui?» chiese con fare decisamente villano il medico. «Noi che?» si stizzì Alan. «Dovete lasciare i letti», protestò il medico, poi rivolgendosi agli infermieri, «come mai sono ricoverati?» «Non lo sappiamo», rispose uno dei due, «nessuno ci ha detto niente. Voglio sapere chi ha dato l'autorizzazione a ricoverare due persone per una frattura al malleolo». Sempre più arrabbiato scoprì le gambe di Gerard. «Hai il tutore, tu no, tu?» scoprì che le gambe di Alan hanno il tutore. «Avanti, alzatevi!» «Oh! Stai calmo», strillò Alan. «Aria, aria», continuò il medico, «lasciate la stanza libera. I letti servono a chi sta male davvero».